Ascoltami uomo, io sono come te, ti parlo dall'alto com'è. Un angelo bianco vestito come un re, non aver paura di me. Odio e paura fanno i re, la morte è la capitale ormai di un mondo che non vuoi. Nel mondo di adesso cosa c'è? Odio e paura fanno i re, ascoltami uomo, sai perché? Ascoltami uomo, io so che tu non sai il motivo per cui io sono qui. E ho deciso di dirlo perché così non puoi continuare ad essere reale. Nel mondo di adesso cosa c'è? Odio e paura fanno i re, la morte è la capitale ormai di un mondo che non vuoi. Nel mondo di adesso cosa c'è? Odio e paura fanno i re, ascoltami uomo, sai perché? Capitale ormai di un mondo che non vuoi. Nel mondo di adesso cosa c'è? Odio e paura fanno errore.